Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Per andare in paese dalla casa dei miei nonni c'era una scorciatoia. La voce della nonna mi si faceva sempre più lontana, mentre io, concentrata, cominciavo a chiedermi se questa volta volevo mi venisse incontro il mio bel principe sul cervo o se avevo voglia di correre col mio leone magico. Bisognava decidere prima di arrivare alla porticina, poi bastava attraversarla. Sono Giulia Casario, 21 anni, studio medicina. Vivo a Milano ma ho una gran passione per la montagna. Appena un po' di tempo libero scappo via dalla città. Carissimo signor Caccia, mi chiamo Zanini Maria Stella, nata a Legnago il 16-3-62, residente, vabbè, non dico proprio tutta la via. Come prima cosa le faccio tantissimi auguri e complimenti per il lavoro, per la sua bella trasmissione, l'ascolto indifferita. Mi scarico le trasmissioni dal menu archivio, trasferisco su iPod, poi vi ascolto quando faccio le pulizie, quando stiro, quando sono in auto o faccio la spesa. Mi fate tanta compagnia, grazie. La storia da me vissuta, se può interessare, che potrebbe essere oggetto di trasmissione, si intitola Inconsapevole rischio di morte. Quelle cose che si fanno con l'entusiasmo e ti accorgi solo dopo che le hai fatte di quello che hai realmente rischiato. Quanti, ad esempio, praticano sport estremi che hanno improvvisato lavori senza averne la competenza. Iscriviti! Io ogni giorno comincerei leggendo una mail che arriva a voi siete qui @radio24 di introduzione al racconto. Non tanto il racconto stesso, perché quello lo leggiamo prima, come sapete, ma proprio la mail che presenta. Grazie a Maria Stella, Zanini Maria Stella, per la sua mail e la sua storia che leggeremo sicuramente non appena ci metteremo lì e Bonini col nostro bel faldone di storie. Buongiorno a tutti, sono le 16:08, quasi 9, questa è Radio 24. Il programma si chiama Voi siete qui ed è venerdì 11 gennaio. L'anno è appena cominciato, ma è già il primo fine settimana. L'anno è appena cominciato, ma è come al solito, che non ce la fate più. È venerdì e ringraziate qualsiasi dio crediate o se siete atei, qualsiasi amuleto abbiate, perché il venerdì è arrivato. E oggi chiudiamo la settimana di Voi siete qui con la storia che ci ha mandato Giulia e che è dedicata, direi, a tutti i grandi nostalgici. Sarebbe stato molto facile, grazie alla storia di Giulia, fare una puntata in cui adoravamo, sì, proprio adoravamo il termine esatto, adoravamo tutte le cose del passato che non ci sono più. E noi invece oggi vogliamo cercare di violentare quei nostalgici. Vorremmo cercare di farli, come dire, staccare un attimo quel cordone ombelicale con tutto quello che era molto più bello un tempo, che era meglio prima, che adesso invece fa schifo, che è ripugnante e non c'era più quello che c'era una volta, cercando proprio di, così, per una volta, di farli riflettere sul fatto che vabbè, però ci sono delle cose che sono meglio oggi di prima, ok? Tutto quello che di oggi preferite rispetto a prima, voi che siete dei grandi nostalgici. 349-238-6666. È arrivata anche una bella mail che la leggo adesso? No, la leggo dopo. La leggo dopo la borsa. Abbiamo anche un hashtag per il profilo Twitter, per tutti quelli che ci seguono da lì, che è Cancelletto si stava meglio quando. Lungo sto hashtag. O altrimenti voi siete qui. Comunque voi siete qui R24 al profilo Twitter, voi siete qui Radio 24 e invece è quello Facebook. Ci sono un sacco di cose, no, che in fondo oggi sono meglio di quando... di quanto si stesse prima, al contrario di quanto si crede. Ve lo leggo subito. Ad esempio Emanuele dice: beh, possiamo dire che l'accesso alle informazioni una volta era molto più difficile, poteva anche dare un'aura di magia e di mistero, ma all'atto pratico si aveva meno accesso alle informazioni. Questo non fa una grinza. Oppure Fabrizio, quella di Fabrizio è un po' più corposa. A proposito del si stava meglio quando si stava peggio, si starà meglio e io invece sto sempre peggio. Sono venuto al mondo giusto in tempo per vedere finire il boom economico degli anni 60. Mi sono perso il 6 politico e ho dovuto studiare. Poi è stato il momento della libertà sessuale negli anni 70, ma a me è toccato lo spettro dell'AIDS. Ho poi visto gli yuppies sorseggiare la Milano da bere con le loro Mercedes parcheggiate in seconda fila, ma dall'abitacolo di un maggiolino scassato. E il tutto mentre 45 anni abbronzati se ne andavano in pensione facendosi erogare erogare mutui al 100%, acquistando signorili case di cooperativa in edilizia convenzionata in Piazza Duomo. Ma poi, quando è toccato a me, puntini puntini. Fabrizio, ecco, oggi vorremmo esattamente andare nell'altra direzione, ok? C'è qualcosa che oggi è meno peggio. Magari non meglio, ma è meno peggio di prima, no? Troviamola. Ad esempio... Fefo scrive, però è totale contratendenza, direi. Fefo sarà un nickname. Sinceramente sto meglio ora di prima. Quando c'era la lira non potevo permettermi tante cose, ora invece sì. Fefo, dici cosa fai, perché credo che tu sia l'unico sulla terra. Valentina, ad esempio, oggi ho due splendidi bambini e prima invece non c'erano. E poi ancora Roberto, sono sposato da 6 anni, ho una mia dimensione di casa che presto non sarà più provvisoria ma definitiva. Per il resto prima stavo meglio, ero più sereno e tante cose che allora mi piacevano adesso non ci sono più. Vabbè, Roberto, abbiamo trovato almeno una cosa, ok? Si sta meno peggio di quanto non si stesse prima. 349-238-6666. La storia di Giulia in realtà non è una storia di passatismo, non è una storia in cui lei racconta quanto stesse meglio prima. C'è però un filone di nostalgia che ha anche un suo sapore buono, però l'abbiamo usata per questo oggi, per cercare di andare un po' via da lì e cercare di stare un pochettino più qui. 349-238-6666, questa è la storia di Giulia. Per andare in paese, dalla casa dei nonni, c'era una scorciatoia. Si scavalcava un muretto, scendendo poi da una scaletta di legno che stava appoggiata dall'altra parte. Io, la nonna e Silene camminavamo tra le vigne su un sentiero sempre un po' fangoso e molle, specialmente dopo la pioggia. Cantavamo e intanto cercavamo coi piedi le zolle erbose per sfuggire al pantano saltellando. E poi eccola, la porticina. La bella voce della nonna mi si faceva sempre più lontana, mentre io, concentrata, cominciavo a chiedermi se questa volta mi venisse incontro il mio bel principe sul cervo o se avevo voglia di correre col mio leone magico, oppure di fare un saluto ai pirati del deserto, o 4 salti sugli alberi con le liane. Bisognava decidere prima di arrivare alla porticina, e poi bastava attraversarla. Restava il perimetro di questo muretto secco, basso, era proprio come disegnato per terra, e poi c'era questa porticina di legno tutta sgangherata, con le assi tutte rotte, piene di schegge, e basta, però... riusciva comunque a nascondere quello che c'era dietro, perché c'erano comunque delle piante, quindi era comunque una barriera. Ma solo io lo sapevo. Per gli altri era una porta e basta, letteralmente. 3 pesanti assi di legno tutte rotte e scheggiose, tenute insieme da 2 listelli di ferro arrugginiti quanto i chiodi. Del muro a cui apparteneva restavano giusto poche pietre a farle da cornice. Sganciavamo il chiavistello fatto di fil di ferro, arrugginito pure quello. Spingevamo e la porta si apriva con uno scricchiolio pieno di aspettativa, e poi il solito sentiero. No, non ero delusa, perché ci sono anche loro, ovvio, mi dicevo, se fossi stata da sola. Lo sanno tutti che si può passare da una dimensione all'altra solo quando si è da soli, se no non funziona. Proseguendo e svoltando a sinistra, ci trovavamo poi tra una siepe e un muro di sassi. Per noi bambine altissimo, inespugnabile. Saltavamo con tutte le nostre forze per vedere il bellissimo giardino che, ne eravamo sicure, il muro nascondeva. Intanto il solito cane ci abbaiava da dietro la siepe. Dopo un pezzetto sul muretto dell'argine del torrente, eccoci al ponte cui si arrivava anche dalla strada lunga, quella noiosa, e in un attimo si era in paese. Ora, molti anni dopo, arrivo in treno alla stazione del paese per una visita fugace ai nonni. Non mi capita di prendere quella scorciatoia di chissà quanto tempo. Anzi, non ci penso neanche più. Ormai i nonni li vedo di rado. Toccate fuga. Con mia nonna ho sempre avuto un rapporto molto allegro, molto gioioso e colorato. E soprattutto associo a lei la dimensione del canto, che mi ha aperto dei mondi di immaginazione che sono stati molto importanti nella mia infanzia. Oggi però sto camminando, sono arrivata al ponte, e invece di proseguire diritto, cammino sull'argine del torrente. I dintorni sono molto cambiati, villette nuove, giardini, asfalto, prima non c'erano. Avverto una vaga inquietudine, la gola mi si strozza un po'. Ecco però il muro di sassi, lo vedo e tiro un sospiro di sollievo. È incredibilmente basso. Al di là vedo un cortile un po' squallido. Sono tra la solita siepe e il solito muro di sassi. Avanti ancora un po', poi c'è la svolta a destra e vedo quello che non vorrei. Case e vialetti, anche lì che prima non c'erano. Vado fino in fondo per essere certa di non sbagliarmi, che non l'abbiano magari lasciato lì dietro, il passaggio, schiacciato tra due recinzioni. Brutale, il cancelletto della nuova casa mi si sbarra davanti. Sono spiazzata, qualche istante di immobilità, e poi irrompo in un pianto aperto, forte e sincero. In piedi con le mani nelle tasche, lo zaino in spalla, sono bambina e piango. Voglio le mie vigne, il mio giardino incantato dietro al muro, voglio la mia porticina. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Perché lo sanno tutti, no? Che si stava meglio quando si stava peggio. Che poi è una maniera per dire che prima era meglio di adesso, anche se avevano meno medicine o non potevano usare gli smartphone. Prima è sempre stato meglio di adesso. Mio nonno diceva che ai suoi tempi le macchine erano indistruttibili, e anche i trattori e le radio. Cioè uno comprava un oggetto e lo teneva per tutta la vita. Semmai lo faceva riparare ogni tanto. Adesso no, tutto si rompe e in un attimo devi ricomprartelo nuovo. Poi diceva che una volta non c'erano tutte queste malattie che ci sono oggi, che adesso i bambini sono allergici a tutto e prendono sempre l'influenza, e c'è sempre qualcosa. Mia nonna diceva che una volta si mangiava più sano, che l'insalata non stava in buste di plastica e la frutta sapeva di frutta. Anche i miei però fanno un po' questi discorsi ogni tanto. Mio padre dice che il calcio di 30-40 anni fa era più sincero, più generoso, e si dava qualche scarpata in più, ma si facevano meno scene. Che i talenti erano rispettati e nessuno andava in giro con gli orecchini o le creste sulla testa. Mia madre dice che la musica si è fermata agli anni 70 invece, e tutto quello che è venuto dopo è stato un tentativo di dimenticarsi delle cose belle. E adesso ci sono solo ragazzini brufolosi che ballano ma che di musica non ne sanno e roba buona non se ne sente da un pezzo. Perché per tutti, no? Prima è meglio che adesso, in qualche modo. Pure io ogni tanto mi faccio prendere dalla malinconia e dalla nostalgia per il passato e penso a come ero in forma quando avevo 18 anni, a come mi divertivo a scuola, a quando avevo tutta la vita davanti, al periodo senza preoccupazioni dell'università o a tutte le volte che ho fatto qualcosa per la prima volta. E pensavo a com'era andare a San Siro senza il biglietto, tanto prima o poi un'entrata libera la trovavo. Oppure parcheggiare quasi in piazza del Duomo per andare al cinema, dove peraltro era ancora concesso scegliersi il posto da soli. Tutta roba che non torna più. Poi mi è successo che l'altro giorno stavo parlandone con Ettore. Avete presente Ettore? Il mio amico, quello bambino, quello che abita vicino a casa mia. Chiacchieravamo, lui è uno molto sveglio, e lui diceva che non poteva più esistere un mondo senza tablet. E a un certo punto mi ha detto che nel futuro sarà tutto touch. E allora io gli ho detto che le mie vacanze al mare da piccolo erano invece piene di partitelle a pallone o al calcio balilla, e c'erano i ghiaccioli, quelle robe lì, no? Passatiste, le corse sulla spiaggia, le biglie. E invece adesso passi molto più tempo sulla PlayStation perché è più facile farlo così. E poi gli dicevo che c'è il tempo che cambia, c'è il riscaldamento globale, per non parlare della crisi economica ovviamente. E mentre gli raccontavo questo mio meraviglioso passato, mi sono venute in mente due cose. Una è quella frase che mi ero scritto su un foglietto a 20 anni e che mi ero appeso sulla parete del letto, e poi però era diventata una sorta di parte dell'arredamento. E la frase era: ricordarsi sempre che quando dicono che questa è l'età migliore, si sbagliano. E mi è venuto in mente che non era un bel periodo in effetti quello, quando avevo 20 anni. E poi mi sono reso conto che stavo in realtà mancando di rispetto a Ettore, che è un bambino e c'ha 11 anni. Gli stavo mancando di rispetto nel dirgli quanto fosse sfortunato lui a vivere in un'era così peggiore rispetto a quello che avevo vissuto io in gioventù. E lì dentro c'era tutta la mia invidia per non essere più giovane o giovanissimo, ma c'era soprattutto un'arroganza che non mi era consentita. Cioè, chi ero io per dirgli quanto facesse schifo il suo mondo, che peraltro io ho contribuito a costruire? Tutti quelli che vagheggiano un passato meraviglioso, secondo me, si stanno raccontando una storia. La storia in cui c'è stato almeno un momento della loro vita in cui sono stati pienamente felici e si sono sentiti completamente fortunati. Si capisce quando entrare questa canzone, ragazzi. Ho capito, io vi guardo, però è tutto 349-238-6666. Oggi c'è l'euro, è bellissimo andare in giro senza cambiare valuta, mi scrivono. Invece prima c'era la lira. E poi la lira era così. Adesso ne dico una, mi attirerò. Guarda, lo so, tutti gli ascoltatori già arrabbiati perché non c'è più Giannino, mi odieranno. Ma dai, torna Giannino, tanto a marzo, no? No, è che la lira sembrava così cheap. L'euro invece, quando è arrivato, a me pareva di avere in mano tipo dei dollari. E poi adesso nei film americani usano i dollari, no? Perdonatemi, usano gli euro quando tipo devono spacciare roba, comprare armi. Che figata. Prima c'era l'idea di poter fare qualunque cosa. Oggi invece c'è mia figlia e si sta molto meglio oggi. E poi ancora Stefano, i vetri delle utilitarie non si appannano più. La meravigliosa prosaicità degli ascoltatori di Radio 24, insieme anche alla grande poesia di altri, quelle di Eustachio, che dice: meglio adesso, comprendo molte più cose. 349-238-6666. Giulia, ripeto, ha scritto un racconto che sembrava quasi una fiaba da come descriveva la sua infanzia. Non ha a che fare col passatismo la sua storia, c'era però una nostalgia che noi oggi abbiamo cercato di sfatare. Pronto, Giulia? Pronto, ciao. Come stai? Molto bene, grazie. Hai nostalgia per qualcosa in questo momento preciso? No, in questo momento non ne sento. Senti, quando l'hai scritto questo racconto? L'ho scritto il giorno dopo dell'ultima Pasqua. Cioè, quindi la Pasqua del 2012 praticamente? Sì, e ce l'hai mandato subito? Sì, l'ho mandato quasi subito. Cioè, possiamo dire che l'hai scritto per noi? No. Come no? No, aspetta, no, la rifacciamo. No, Giulia, aspetta, no, facciamo finta. Questa la tagliamo poi, tanto siamo registrati. Adesso io te lo richiedo, tu mi dici, certo che l'ho scritto per voi. Giulia, possiamo dire, vado Paolino, possiamo dire che questo racconto l'hai scritto per noi? Ovviamente sì. Brava, benissimo. Senti, dimmi che cosa fai nella vita, Giulia. Dunque, io studio medicina a Milano. Mm-hmm. Perché una ragazza di 21 anni, che in realtà poi l'ha scelto 3 anni fa, quindi una ragazza di 19 anni oggi decide di fare medicina? Ma devo dire che non sono stata spinta da un padre chirurgo, da un forte altruismo, come insomma la vocazione di salvar vite, che è anche una cosa, un aspetto che mi piace molto. Molto nobile. Sono stata parecchio in crisi perché ero indecisa tra un sacco di cose diverse. Mi sono poi resa conto che medicina era quella che mi interessava di più. E devo dire che finora sei contenta. Sono stata contenta. Sì, senti, sì. Ma i tuoi che cosa fanno? Fanno cose simili oppure hai scelto in totale autonomia? Fanno qualcosa di simile, ma non sono medici. Ok, tipo un dentista e un infermiere? No, benissimo. No, un veterinario. No, basta, va bene, non voglio sapere. Senti, invece io ne approfitto ogni volta che c'è qualcuno al di sotto dei 30 anni. Quando vi incontrate, che così sembra una setta segreta, quando vi incontrate voi ventenni? Cioè, quando semplicemente esci con gli amici e non fate qualcosa tipo alcolizzarvi o fumare della roba che non si può nominare in diretta. Cioè, quando in sostanza vi capita di riflettere, sto scherzando ovviamente Giulia, sento che ti sei ammutolita ma stavo scherzando. Sto ascoltando con grande attenzione. Quando vi capita di riflettere sul vostro futuro, cioè sul futuro di quella generazione, la vostra generazione, avete più sfiducia o più le sensazioni che comunque le cose le aggiusterete? Ma devo dire che ci sono punti di vista molto contrastanti. C'è chi si aspetta un grande sfacelo, insomma ci sono i disfattisti che dicono andrà tutto a rotoli. Invece ci sono tanti ragazzi molto ottimisti che hanno voglia di fare e sono convinti di riuscire a fare qualcosa. Quindi devo dire, io sento molta positività in realtà, per quanto sia un po' lo sconcerto, perché insomma, il disorientamento, ecco. Ho capito. Tra l'altro tu mi dicevi prima fuori onda che non fai solo medicina, fai almeno due cose che sono importanti nella tua vita, giusto? Sì, sono, cioè, diciamo, le più importanti, sì, sono il teatro e l'arrampicata. L'arrampicata, vabbè, il teatro posso immaginarmi, no? Cioè, seguirai dei corsi, sì. Ok. Invece l'arrampicata è proprio l'arrampicata a mani nude, no? Free climb, come si chiama? Sì, quella a mani nude. Sì, io... cioè, senza picozze, intendo dire. Giusto? Come? Senza picozze. Senza picozze, quest'anno mi sono data anche un pochetto alle picozze. Sul ghiaccio ci sto provando. Però comunque sì... arrampicata con scarpette, mani nude, che cosa... corde e roccia. Cos'è che c'è cosa c'è nell'arrampicata? Cioè, qual è la cosa? Se devi pensare a una cosa per cui lo fai, che non sia tenersi in forma, ma credo che a 21 anni tu non abbia questo problema o questa intenzione, cioè, qual è il fascino di stare addosso a una parete e cercare di scalarla? Da una parte il contatto con la roccia in sé, e dall'altra il... questa nettissima sensazione del lasciare tutto giù e continuare a salire. Avere questa progressione costante, continua, in cui sei tu e il tuo compagno e basta. Che è quello che fa sicurezza, giusto? Perché bisogna essere in due, altrimenti uno non sa dove mettere, esatto, la corda, in sostanza. Sì, si alterna, sale prima uno, poi lo raggiunge l'altro, poi di nuovo prima uno, poi l'altro, e così si procede. E prima uno e poi l'altro ancora. Senti, esatto. Giulia, mi piace moltissimo questa cosa dell'arrampicata, perché è antinostalgica, quindi ti saluto con questo. Ti ringrazio, ti lascio tornare a fare quello che stavi facendo, che è studiare, mi pare. Studiare come una disperata, sì. Perché hai esami quando? A breve, tra gennaio e febbraio. Di che cosa? Fisiologia e patologia questo semestre. In bocca al lupo. Sono abbastanza giganti. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Ciao Giulia, grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao. 349-238-6666. Le cose che mi fanno stare meglio prima di oggi, di prima, è il telecomando. È molto bella Giulia nella foto che ci ha mandato e... dimostra i suoi 20 anni, mentre, come le dicevo prima fuori onda, dalla voce e dal modo di parlare sembrava molto più matura, ma forse questa è la sensazione che danno le donne agli uomini, che sono sempre un po' indietro. È in un luogo che credo sia di montagna, perché si vedono dei picchi alle sue spalle, e poi ci deve essere vento, perché ha dei capelli neri che scompigliati che le vanno tutti da una parte. Ho la sensazione che stia parlando a qualcuno, anche se ha gli occhi bassi, e sta a... avete presente come si tengono le mani una vicina all'altra con le punte delle dita impegnate a muovere qualcosa, come se si stesse rollando una sigaretta? Non credo stia rollando niente lei, credo che abbia in mano... No, non sta rollando niente. No, ha in mano un orecchino, mi pare. Ha in mano un orecchino. Ha su una canottiera nera e una collana d'oro molto sottile con un anello nero attaccatoci in mezzo. Nostalgia. Sostantivo femminile. Stato d'animo corrispondente al desiderio pungente o al rimpianto malinconico di quanto è trascorso o lontano. Etimo, composto del greco nostos, ritorno, e algia. Etimo, composto del greco nostos, ritorno, e algia. Data secolo XVIII. Ma vuoi mettere, mi scrive Paolo ex DJ. Ex, che se si fosse formato Paolo C, invece si chiama Paolo M, avrei pensato che fosse Paolino Corleoni. Vuoi mettere, mixare la musica adesso con le tecnologie legate al computer, ai due piatti, i mixer e i primi campionatori e la radio? Non ne parliamo, addio anni 80. Paolo, non sono solo gli anni 80 cui si dà l'addio, però, no? Sono tutti gli altri, i 70, i 60 e quelli che c'erano prima. A proposito di musica, i Sex Pistols cantavano, scrive Nicola, No Future negli anni 70, quindi c'erano problemi anche allora, ma è esattamente di questo che parliamo, no? Dei Sex Pistols, è di questo. Guarda, ti trovo il messaggio che fa il doppio con quel, fa il paio, fa il dispari, come si dice? Fa il paio, fa scopa, come, vabbè, scherzo, fa il paio, che è la stessa roba. Quando andavo a scuola, le maestre e le prof dicevano che gli alunni di una volta erano molto meglio. Oggi le maestre di mia figlia sostengono che i bimbi di 20 anni fa erano molto meglio. Conclusione: o più si va avanti e l'umanità si rovina, oppure le generazioni sono incompatibili tra di loro. O, firmato Ale, o è esattamente quello che dicevo prima, che quando mi sono trovato davanti a questo ragazzino di 11 anni, Ettore, a cui raccontavo così, ero veramente partito di default, senza pensarci, a dire che una volta appunto ci si divertiva di più, che si stava meglio, bla bla bla, mi sono accorto che io stavo mancando di rispetto a questo ragazzino, perché chi sono io per dire tu non lo sai? Ma quando non c'eri, non perché non ci fossi tu, ma quando non c'eri tu si stava molto meglio prima. È quello che succede quando andate immaginati di essere tu il bambino di 11 anni, ti senti uno sfigato, no? È un po' come quando vai, che so, in una città a New York. Questa è una cosa che capita sempre se vai a New York. Vai a New York, arrivi e sei meravigliato, la città più o meno, magari ti fa schifo, però di solito ti piace, ne parli con qualcuno che vive lì e questi ti dicono sempre: eh beh, ma ragazzi, New York prima Manhattan era un'altra cosa, no, adesso non si può più stare. E tu dici: vabbè, allora sono un cretino io che sono venuto adesso, ci avrà pure qualcosa sta città. È più o meno lo stesso discorso. Oggi si sta meglio in spiaggia a prendere il sole, scrive Vito, perché le creme protettive sono più efficaci. E tu dici: boh, cioè, ci sta come riflessione, però. E soprattutto perché le ragazze sono più sportive e i bikini più piccoli. Rod scrive: ora è più bello perché si può girare in Europa senza passaporto e senza dogane. Ma più che altro senza passaporto, senza dogane, se vai in Svizzera ogni tanto stop, no? Era meglio. C'è uno che risponde invece a quello che diceva, era che si sta meglio adesso perché i vetri delle macchine non si appannano. Francesco da Roma scrive: era meglio quando i vetri delle auto avevano il deflettore. Deflettore cos'è? È quella cosa, è quel pezzo triangolare che stava davanti, no? Anche il maggiolino ce l'aveva, quel pezzo a triangolo che si apriva ruotando su di sé. Avevano il deflettore, si fumava, che era una bellezza, e non si appannava al vetro. Francesco, a parte che però chi fuma in auto, primo, chi fuma in auto? C'è ancora qualcuno che fuma in auto? Se c'è qualcuno che sta fumando in auto adesso, ce lo scrive 349 238 6666. E comunque, se tu lasci aperto un po' il finestrino, mi ricordo il babbo di un amico che mi portava sempre a scuola la mattina, rischiando la vita tutte le mattine, fumava con un filo di finestrino aperto, e comunque fa da camino, no? A prescindere che fosse deflettore oppure no. 349-238-6666 è un calcio alla nostalgia quello di oggi, e voglio leggervi una mail che è arrivata stamattina e che ormai abbiamo preso questa abitudine, quindi più tardi la carichiamo anche sul profilo Facebook di questo programma, dopo aver chiesto il parere a Piero che l'ha scritta. È una mail che è più che altro una sorta di riflessione, ma racconta come lui prima fosse un passatista totale, come fosse convinto che tutto quello che accadeva prima era meglio di quello che gli stava accadendo in quel momento, e poi a un certo punto semplicemente ha cambiato idea. Caro Matteo, ho letto l'argomento della puntata di oggi e ho deciso di scriverti. Mi chiamo Piero, ho 54 anni e sono sempre stato un passatista. Per tutta la mia vita, passati i 20-25 anni, ho sempre pensato che tutto quello che era intorno a me fosse orribile, che tutto quello che era stato prima fosse meglio di qualsiasi cosa mi stesse accadendo in quel momento lì. Ricordo che ogni volta che qualcosa andava storto, davo la colpa a quello che non sapevo nemmeno cosa fosse, ma che era una sorta di aura che avvolgeva tutto ciò che mi accadeva intorno. Tutto mi sembrava poco interessante al confronto di quello che invece avevo vissuto anni prima. Per cui la scuola era un incubo rispetto a quando ero un bambino. Allo stesso modo, gli amici mi parevano meno simpatici dei miei compagni precedenti. Quando avevo 20 anni ci eravamo trasferiti di casa e ovviamente la casa nuova era orribile rispetto a quella di prima. Insomma, mi sono portato dietro questa scusa per diversi anni. Per circa 30 anni esatti, la parte centrale della mia vita, io non ho fatto altro che guardare il presente come qualcosa di orribile e ormai fuori tempo massimo. Poi un giorno, per una serie di ragioni che non starò qui a spiegare, mi sono ritrovato da solo e in una nuova città. E invece che fingere di guardare avanti disprezzando il presente e incensando il passato, mi sono fermato a riflettere su quanto avevo fatto fino a quel momento. Io, fino ad allora, avevo incolpato il presente di una colpa e di una responsabilità che non era sua, era solo mia. ero io che non riuscivo a capire che le cose non erano peggio di prima, erano solo diverse. Ero io che non riuscivo a capire che molti cambiamenti erano necessari. Ecco, da quel giorno, ogni giorno, io ho cominciato ad alzarmi e prima di cominciare la giornata ho sempre cercato di analizzare quello che avevo e di godermelo per quello che era, e non per quello che era stato o che sarebbe potuto essere. Perché altrimenti passato e futuro avrebbero avuto la stessa aura di speranza mal riposta, che non avrebbe fatto altro che avvelenarmi anche il presente. Ora non è che sia diventato un saggio, non faccio nulla di eccezionale. Semplicemente cerco di accettare i cambiamenti e di non lasciarmi sfuggire il futuro, cercando paragoni con un passato che non sarà più. Sì, lo so, sembra un trattato di filosofia for dummies, ma questo è quanto. Grazie, Piero. You sing about waking up in the morning, but you're never up before noon. You look completely different from those strays who walk around on the moon. The clothes you wear would suit an old time's balloon. Una canzone del passato per una puntata antipassatismo. 349-238-6666. Si è scatenato l'inferno nel momento in cui ho detto: ma perché c'è ancora qualcuno che fuma in macchina? Sono arrivati, credo, dai 30 ai 40 messaggi solo durante il brano, in cui la gente mi dice: sì, io sto fumando, torno dall'ufficio e sto fumando, l'ho appena spenta, ma sono da solo e tengo il finestrino un po' aperto, Gipo. Ecco perché quando cerchi le macchine usate, vabbè, c'ho questo trip di cercare macchine usate ogni tanto, e nelle indicazioni scrivono non fumatore, perché tu figurati nel momento in cui compri la macchina di uno che come lui, aspetta, l'ho perso. Uno che dice faccio 60.000 km all'anno in macchina, come fare altrimenti? Sali su quella macchina. C'è un residuo di tabagismo, che altro che fumo passivo. Io fumo una o due sigarette al giorno e una in macchina. E Ricky invece mi scrive: fumare in macchina è vintage, che non so se sia bene oppure no. 349-238-6666. È arrivato già anche qualche messaggio riferito alla foto di Giulia, che trovate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui. Ecco, vi ricordo che Giulia ha 21 anni, anche se ne dimostrava di più. E poi qua, vabbè, diciamo, quando arrivano messaggi così sono un pochettino, ti preoccupano. Ciao Matteo, ti ho visto stamattina mentre eri in Vespa, tutto bardato, verso le 10, all'incrocio tra via Salasco e via Vittadini, per la precisione. Stavi canticchiando una canzone o ripetendo tra te e te qualche racconto? Guarda Costantino, non mi ricordo cosa stessi facendo, forse stavo dicendo scemate da solo, però mi piace quest'aura, quest'idea che ti sei fatto, per cui stavo probabilmente raccontandomi una storia, così, in Vespa mi stavo raccontando una storia di Voi Siete Qui, oppure chissà cos'altro. Però chiuderei la puntata antipassatista di oggi con il messaggio di Mauro, che dice: un filosofo greco ha scritto 3.000 anni fa dove si finirà con i giovani d'oggi. Grazie a Stefano D'Andrea, grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e grazie a Margherita Ina. Grazie soprattutto a Giulia. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Luigi Del Buono, vengo da Ancona. La storia di lunedì è la mia, è la storia di come giorno per giorno, lavorando, si cerca di ottenere un risultato, si va tanto così e poi non lo si ottiene per pochissimo. Questa è la mia storia ed io sono qui.